Un benvenuto a tutte e a tutti, questa è Oxygen, in voce con voi Amptech, per un'ennesima puntata dedicata alla musica elettronica e alle ultime release dei vari produttori sparsi per la globo terracqueo. E abbiamo ascoltato un lungo estratto tratto dal nuovo lavoro di One Trick Point Never, pubblicato dalla Warp Records. Si tratta di Daniel Lopatin, uno dei produttori più prolifici e interessanti che la Warp abbia proposto negli ultimi anni. E questo disco si chiama Tranquilizer e probabilmente si annovera fra le migliori produzioni del 2025, e per questo vi abbiamo proposto più di un brano proprio per avere l'opportunità di ascoltarlo con maggiore attenzione. Restiamo su Warp Records, che pubblica anche il nuovo lavoro di Nightmares on Wax, uno dei progetti di trip hop storici che la Warp ha sempre pubblicato, che realizza nel 2025, da pochissimi giorni, uscito come novità già sul sito di Warp, che si chiama Eco 45 Sound System Nightmares on Wax. Like a solar vision, always sinking down into a growing naked sex, and not to mention 6 inches I did not know existed. No to bitches underwater, you can't book your phone to fishes. Put it down, underwater kiss and take a soul for swimming. Funny how we need to dive to stay alive. Hold your breath cause you're taking mine. Sink or stroke, put you up, whisper your name till you're saying mine. Slow it down, submarine till you moan hard. Make you float so much the neighbors almost call the Coast Guard. Let me die. Listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. questa è sempre Oxygen in voce con voi Amptech. Questi erano Nightmares on Walks, pubblicato da Warp Records, un nuovo lavoro, Eco 45 Sound System il titolo. Passiamo a un altro autore che ha inondato il 2025 di produzioni, ne ha raggiunto, ha superato oramai i 20 album pubblicati in un solo anno. Si tratta del produttore finnico Aleksi Perala, Grace 13, va in ordine numerico, e anche i brani sono intitolati con caratteri alfanumerici che non vi sto a enunciare perché sono una complicazione inutile. Aleksi Perala. Thank you. questo era Alexi Pera nell'ennesima pubblicazione 2025, Grace Till Thin, un autore che abbiamo conosciuto su Reflex, l'etichetta di Aphex Twin. Ma andiamo avanti con un altro produttore, Manoid, che pubblica un lavoro interessante intitolato Intervals, dal quale ascoltiamo Faith Line. Oxygen. Thank you. questo era Manoid, suo nuovo lavoro intitolato Intervals. Il brano era Fate Line, ma andiamo avanti con un'altra novità, passando a un'etichetta storica della techno e della elettronica industriale, ovvero Lanzen. Nuovo lavoro targato Soma, da quale ascoltiamo un estratto che si chiama Stygian Vista. Soma. Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questa è sempre Oxygen in voce con voi, Amptech. Quello che abbiamo ascoltato era Soma, nuovo lavoro pubblicato dalla Anzen Records, un'etichetta fondamentale nella scena industriale europea. L'album si chiama The Inner Cinema. Ma andiamo avanti con un altro autore che proponiamo spesso, PDQB, e ascoltiamo alcuni estratti dal lavoro che si intitola The Electrifying Dojo, PDQB. You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questo è sempre Oxygen. Vi ricordo il nostro sito di riferimento www.radiosamarcanda.it per lo streaming e altre informazioni sulla nostra emittente, ma anche www.musicamagina.com per tutto ciò che è collaterale a quanto vi proponiamo radiofonicamente: playlist, podcast, recensioni, video. Andiamo avanti con un autore che abbiamo avuto occasione spesso di ascoltare, anche lui molto prolifico, ASC, che pubblica Magnetic Fields. You listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. The volume.